Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Abbiamo parlato molto spesso di calcio e lo faremo ancora. E abbiamo raccontato di azioni, di gol, di estro, di calciatori fuori dalle regole. Però il calcio è tante cose. Il calcio solleva le coscienze, muove il pensiero, muove danaro. E quindi c'è anche un altro aspetto, un'altra faccia della medaglia. Con il calcio ci si sporca e anche noi oggi ci sporcheremo le mani, perché abbiamo avuto spesso notizie di calciatori uccisi dalla malavita organizzata. È accaduto anche recentemente a Alfredo Pacheco, ex nazionale del Salvador, oppure a Peralta, il giocatore dell'Honduras ucciso in un parcheggio di un centro commerciale. Abbiamo vissuto anche in Italia storie in cui ci si sporcava le mani, la vicenda per esempio della squadra di calcio a 5 femminile di Locri, costretta a non giocare e non si sa bene da chi. Insomma, esiste un calcio sporco che non dovrebbe aver nulla a che fare con la favola che fa sognare milioni di appassionati. Oggi ricordiamo un esempio di calcio sporco, o meglio, di persona molto pulita coinvolta senza poter far nulla nel calcio sporco. Oggi raccontiamo la storia del capitano della nazionale colombiana Andrés Escobar. E queste sono le musiche della Colombia. Siamo nel 67 in uno dei tanti barrios colombiani, che sono gli agglomerati urbani che crescono ai margini delle grandi città, e qui nasce un ragazzino che si chiama Andrés Escobar Saldarriaga. Siamo nel distretto di Medellín, ma in questi anni la Colombia non è ancora tristemente conosciuta come patria del narcotraffico, quindi la parola Medellín non suggerisce ancora, insomma, quelle immagini un po' lugubri del cartello di Medellín. Certo, non è un paradiso, la vita è difficile, però Andrés è un ragazzino volonteroso, è studioso, va a scuola e ottiene buoni risultati, e quando finisce di studiare, come tanti ragazzini in tutto il mondo, corre nei campetti e sfoga la sua passione. Lui è bravo, è un difensore puro, alterna la sua giovinezza tra il calcio e lo studio. Poi arriva il momento in cui bisogna prendere una decisione, ce lo ricorda anche sua sorella Maria Esther. Arriva un momento nella vita in cui devi decidere se continuare a studiare o giocare a pallone. Andrés me lo confessò un giorno. Per lui il più grande desiderio era diventare un professionista e giocare nella squadra più importante, il Nacional. Andrés Escobar rincorre il suo sogno. È il 1987, l'Atlético Nacional è la squadra più importante di Medellín e lui fa parte delle giovanili. Quell'anno a guidare la squadra come allenatore arriva Francisco Maturana, è un grande campione che peraltro è anche un grande scopritore di talenti. Avevo appena accettato l'incarico e c'era quel ragazzo che giocava nelle giovanili ed era un vero campione. Era la personificazione della bravura e della rettitudine. Andrés Escobar si trovò lì al momento giusto, nel posto giusto. I più attenti di voi si ricorderanno che noi abbiamo già parlato di Maturana, perché era l'allenatore della Colombia di René Higuita. Anche lui, come Escobar, fa parte di quel gruppo di giovanissimi che vengono presi per mano dal tecnico colombiano, sono forgiati per creare una squadra che sarebbe diventata in poco tempo la più forte del campionato. Così, due anni dopo aver preso le redini della squadra, Maturana porta l'Atlético Nacional a giocarsi la finale di Coppa Libertadores, sarebbe la Champions League sudamericana. La finale è storica perché si gioca contro l'Olimpia di Asunción, i campioni del Paraguay, e fino a quel momento il calcio colombiano non ha ancora vinto nulla. La finale è già un traguardo storico. In difesa c'è Andrés Escobar, il numero 2 che porterà per tutta la carriera e che ha dimostrato di sapersi guadagnare e mantenere il posto da titolare. È un campione dentro al campo, ma anche fuori dal campo. Lo chiamano il cavaliere del football, il cavaliere del calcio, per il suo modo di interpretare il gioco senza falli, senza espulsioni, con la grande correttezza, quella tipica dei grandi difensori che diventano campioni, dei grandi. Juega la pelota Pajardo, la perdía. Fuera del lugar de Amarilla, el zaguero centro del equipo paraguayo. La tiene Perea. La cambia para Andrés Escobar, que arranca por la punta izquierda. La tiene Andrés Escobar, prefiere cambiar a la punta derecha. Bien para Leonel Álvarez, le sale la marca de Crossman. Ha tocado pelota para Alexis García. García cambia juego, pelota arriba, se levanta Fajardo, cabezazo, está ahí, está ahí, está. Usuriaga de cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Questa misurata telecronaca tipica di quei posti ci dice che l'Atletico Nacional quella Coppa Libertadores la vince, mostra al mondo che c'è una novità, la Colombia sta crescendo e rende orgogliosi i propri tifosi ed Escobar diventa una bandiera della squadra del Nacional. E tranne una parentesi nello Young Boys, Escobar non cambia squadra in tutta la sua carriera, diventa uno dei simboli della squadra di giovani talenti di Maturana che nel frattempo diventa anche l'allenatore della nazionale. Così quando nel 90 la Colombia di Higuita, Valderrama, di Rincón ottiene la storica qualificazione ai mondiali italiani, Escobar indossa da titolare la maglia numero 2 e anche la fascia di capitano, perché dimostra di essere un leader, uno capace di mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili. E quando ci sarà una seconda occasione 4 anni dopo nei mondiali del 94 degli Stati Uniti, Escobar sarà ancora lì, una certezza per la difesa colombiana, un inamovibile. Fino a quel momento la sua vita è un susseguirsi di colpi d'ala positivi. Il falco e il gabbiano. Andrés Escobar ha conquistato la maglia da titolare nell'Atletico Nacional ed è il capitano della Selección, la nazionale colombiana. Se è vero che Andrés è un giovane di talento, è un difensore affidabile, è un grande campione, c'è una parte della nostra storia che non abbiamo ancora sfiorato e che permette di capire meglio in che modo la nazionale colombiana in pochi anni, 4-5 al massimo, sia passata dall'essere una squadra modesta a una delle più forti del Sud America. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ho gli occhi dappertutto, il che significa che non potete muovere un dito senza che io lo sappia. Un giorno sarò presidente della Repubblica di Colombia. Mi guadagno da vivere facendo affari. Potete accettare i miei soldi o pagare le conseguenze. Soldi o piombo? O plomo. Eh sì, perché per uno scherzo del destino in quel momento in Colombia si parla di due Escobar. Uno è Andrés, quello di cui stiamo raccontando, il grande campione, l'uomo corretto, il ragazzo che ha realizzato i suoi sogni. E poi ce n'è un altro che si chiama Pablo Escobar, è il più famoso narcotrafficante della Colombia. E la cocaina fa la sua comparsa in Colombia sulla fine degli anni 70, quando dal vicino Cile, per scappare alla sanguinarie operazioni di polizia di Pinochet, alcuni produttori di coca scappano nella vicina Colombia iniziando a collaborare con i contrabbandieri locali, i bandidos, concentrati nella zona di Medellín e di Cali. In pochi anni gente come Pablo Escobar organizza una vera e propria industria per la produzione della cocaina, la sua esportazione in Florida, dove i ricchi compratori americani fanno lievitare in forma esponenziale i guadagni dei colombiani. In pochi anni Pablo Escobar arriva a guadagnare cifre vicine ai 50 milioni di dollari al giorno, avete sentito bene, con un profitto annuo di 5 miliardi di dollari. Forbes lo inserisce nella classifica dei 10 uomini più ricchi del mondo. Un trafficante di droga candidato a presidente, folle, vero? Beh, non in Colombia, non nella metà degli anni Ottanta. Per quanto riguardava i colombiani, Pablo non era affatto un trafficante, era un fottuto vincente. L'incarnazione vivente del sogno colombiano. L'uomo che comprava case per i poveri in cambio di niente. Con una quantità simile di dollari a disposizione, Pablo Escobar può anche permettersi di presentarsi come un novello Robin Hood alla gente, uno che succhia denaro dalle tasche dei ricchi cocainomani americani per ridistribuirlo tra i suoi, tra i colombiani poveri, costruisce strade, case, aiuta quelli che sono in difficoltà, arriva perfino a regalare dei soldi. È un moderno benefattore che però mantiene il suo potere eliminando chiunque si ponga sulla sua strada a ostacolarlo, poliziotti, uomini politici, concorrenti. Negli anni in cui gli americani mandano i loro agenti a combattere il narcotraffico, lui, Escobar Pablo, arriva perfino a fare saltare in aria un aereo di linea dell'Avianca, la compagnia di bandiera colombiana, per eliminare il candidato alle elezioni presidenziali appoggiato dagli americani. In quell'incidente muoiono 110 persone, che non sono nulla se le confrontiamo con le 3.000 persone che Pablo Escobar ha fatto uccidere dai suoi sicari nel corso degli anni. I guadagni derivanti dal narcotraffico sono così ingenti che Pablo Escobar arriva al punto di seppellire nei campi enormi pacchi di dollari in attesa di trovare un modo per rimetterli sul mercato, magari riciclandoli in qualche operazione finanziaria, perché a quel punto riciclare diventa l'esigenza maggiore. Quale occasione migliore per riciclare i soldi americani se non dedicarsi al calcio, comprare squadre intere, costruire stadi, operare con la compravendita? In un paese come la Colombia, in cui la corruzione regna in ogni livello della società, in Colombia, non mica tipo in Italia, in Colombia, il calcio diventa un modo per investire i grandi profitti della droga. Pablo Escobar possiede due squadre, l'Atlético Nacional e il Deportivo di Medellín. I giocatori diventano oggetto di compravendita solo tra squadre colombiane. In questo modo il valore dei giocatori viene gonfiato per giustificare il trasferimento di ingenti somme di denaro. Però accade che le partite tra squadre appartenenti a due diversi boss della droga diventino sfide personali, e a farne le spese, per esempio, è l'arbitro. Quando stavamo nel Rentado Nacional de Colombia. Eravamo nel campionato nazionale nel 1989. A Medellín venne un arbitro, Alvaro Ortega, a dirigere una partita tra l'Atlético e l'América di Cali. L'arbitro fece in modo di far perdere la squadra di Pablo Escobar e lui non esitò un attimo. A fine partita ordinò ai suoi sicari di raggiungere al parcheggio Ortega e di ucciderlo. All'arbitro lo maten. Beh, insomma, se pensiamo ai nostri arbitri che si offendono se li contesta qualcuno la domenica sera in qualche trasmissione televisiva, qui siamo su altri, in un altro pianeta. E in questo clima surreale, Andrés Escobar, il protagonista della nostra storia, il calciatore, continua la sua carriera. Diventa uno dei giocatori più rappresentativi della Colombia. Tra l'altro, il calcio colombiano vive una specie di isolamento calcistico, perché intanto i boss della droga pagano ingaggi altissimi ai propri giocatori e quindi nessun team straniero si avvicina. Poi non è bello trattare compravendite di giocatori con i narcotrafficanti. E poi, lo abbiamo detto, le vendite dei giocatori servono anche a gonfiare i bilanci, a far entrare soldi sporchi, quindi vanno fatti all'interno dei confini. Questo comunque non fa altro che rinforzare la nazionale colombiana, che in questo modo ritrova i suoi campioni sempre a disposizione, diversamente da altre nazionali. Insomma, in Sud America spesso sono state assemblate nazionali con giocatori che giocavano tutti in Europa. Insomma, la Colombia va a gonfie vele e dopo la storica partecipazione del 1990 loro tornano a partecipare a un mondiale nel 94, dove? Negli Stati Uniti. A questo punto della nostra storia fa ingresso quel calcio sporco e che cambierà la vita di Andrés Escobar. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Andrés Escobar, il capitano della nazionale di calcio colombiana, che ha partecipato a due edizioni consecutive dei mondiali, quelli di Italia 90 e quelli del 1994. E la sua storia è strettamente legata a un altro Escobar, Pablo, il boss del narcotraffico, quello che ha investito milioni e milioni di dollari nel mondo del calcio colombiano, per riciclarli naturalmente, però nel frattempo ha creato questa connessione terribile, questo abbraccio mortale tra il calcio e la malavita, passata alla storia con il nome di narco football, quel periodo storico della Colombia. La nazionale colombiana comunque è forte, arriva ai mondiali del 94 dopo una serie positiva di 26 partite nelle quali ha affrontato con successo squadre di tutto il mondo. Per esempio, ha battuto l'Argentina, quella di Batistuta, per 5-0, insomma, sono pronti per questo mondiale, si sono presentati nel migliore dei modi e quel 5-0 ancora rimbalza tra di loro perché è stata una carica incredibile. Viene chiedendo per il giocatore, juega per la breccia, Costa intento la gambetta corta, Lionel la juega para el pibe, la mete larga para el tino, se va la castella colombiana, se mete en el área, pica el 3, Valencia se coló, el gol del 3, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. In questo clima di euforia nel 1993 c'è un evento che cambia la storia della Colombia, perché Pablo Escobar, il narcotrafficante, viene ucciso in un'azione di polizia che coinvolge anche le forze speciali americane. Però questa sarebbe una buona notizia di per sé, però l'equilibrio tra i grandi boss della cocaina si rompe e quindi in Colombia inizia una guerra per la successione che insanguina le strade e crea uno stato di terrore a cui neanche il calcio può rimanere estraneo. A Medellin ogni giorno muore qualcuno, magari è ucciso per strada da un'autobomba oppure da un colpo di pistola, magari sparato alle spalle. Insomma, la situazione in Colombia e a Medellin in particolare è totalmente fuori controllo. Andrés e io camminavamo per strada parlando del più e del meno. 5 minuti dopo il nostro passaggio scoppiò un'autobomba. Se fossimo stati lì, saremmo morti entrambi. Nelle parole della fidanzata di Andrés Escobar viene riassunta tutta la tragedia e la tragicità della situazione in cui si trova la Colombia poche settimane prima del Mondiale del 94, quasi abituati alla violenza nelle loro strade, in tutta Medellin soprattutto. E comunque i due ragazzi, Andrés e la sua fidanzata, stanno pensando al matrimonio, stanno facendo progetti per il futuro. Escobar poi ha ricevuto un'offerta dal Milan e quindi sogna un suo futuro in Italia, lontano da quegli orrori di Medellin che vorrebbe rimuovere. Apenas para vivir tranquillamente. Sono giorni difficili per vivere in Colombia, ma noi non dobbiamo farci influenzare troppo da questa situazione. Non dobbiamo farci condizionare dalla violenza. Dobbiamo pensare alla preparazione per il mondiale, perché è l'unico modo che abbiamo per fare una bella figura. In un livello buono per il mondiale. Sentite, la sua voce è calma, è molto concentrato. Sa di essere uno dei pilastri di una nazionale che deve far bene e in un certo senso che è costretta a far bene. Insomma, la nazionale parte per gli Stati Uniti, è quasi una delle favorite alla vittoria finale, non è poco, fino a 8 anni prima sarebbe stato impensabile, è una squadra molto forte, giocatori che si conoscono da tanti anni. In attacco per esempio c'è un signore che si chiama Faustino Asprilla, che in Italia conosciamo bene, ha giocato nel Parma, era un attaccante veloce, estroso, funambolico, molto simpatico. Però il clima è teso qui, ognuno di loro sente sulle spalle la responsabilità di riabilitare con una vittoria l'intero paese e il popolo colombiano agli occhi del mondo. In questa intervista il nostro Andrés Escobar mostra tutta la sua semplicità. Realmente la concentrazione mi ha duro. È difficile rimanere concentrati, ma io trovo le motivazioni pensando alle cose belle che possono accadere. Cerco di leggere ogni giorno qualche passo della Bibbia e uso come segnalibri 2 fotografie, una di mia madre e una della mia fidanzata. La foto di mia madre e la foto della noi. Il mondiale però non inizia bene per la selezione colombiana. E nella partita di esordio si gioca contro la Romania, un'altra outsider interessante. Ci giocano Agi, Raducioio, è una squadra in crescita. Insomma, la Colombia rimane ipnotizzata da un gioco difensivo, attendista dei rumeni. La palla non entra in porta, si sa come iniziano e come vanno queste partite. Cominciano a sganciarsi in contropiede, i rumeni vincono 3-1. Questa sconfitta ha un effetto devastante sui giocatori della Colombia. La striscia positiva, ricordiamolo, durava da 26 partite, questa è una doccia fredda. E poi il problema non è solo legato al risultato, e subentra il calcio sporco, perché molti scommettitori in Colombia cominciano a perdere ingenti somme di denaro. E se è vero che questo in un paese normale non avrebbe effetti particolari gravi. Non è così per la Colombia, dove i soldi sono strettamente legati alla malavita. Questo per esempio è un ricordo di Herrera, che era un compagno di squadra di Escobar. Después del primer juego con Rumania. La sera della sconfitta con la Romania tutti mi stavano aspettando in albergo. Maturana mi prese in disparte e mi disse che aveva chiamato mio padre. Mio fratello era stato ucciso a Medellin. Volevo rinunciare, volevo tornare a casa, ma Andrés mi disse di restare. Il paese aveva bisogno di me, perché tutto il mondo ci stava guardando. A un mondiale no a tutto il mondo. Eh sì, la prima risposta della malavita ai giocatori è l'uccisione del fratello di uno di loro, una vendetta per la sconfitta subita. L'aria che si respira nello spogliatoio ovviamente è surreale, e alla seconda giornata si gioca contro gli Stati Uniti. È già una partita decisiva per il passaggio del turno. La stampa internazionale probabilmente ignora i legami tra la nazionale e i fatti di cronaca nera, comunque non ne parla. La selezione ha sempre vinto contro gli Stati Uniti, è una partita più che abbordabile, però per i calciatori colombiani il momento è confusionale, non c'è più alcuna certezza, e anche perché ormai si è capito che la posta in gioco è molto di più di un semplice passaggio del turno. Ogni giocatore si sente imprigionato in un'angoscia che non può neanche confessare alla stampa. E Maturana? Quando Maturana arrivò nello spogliatoio, la sera della partita, stava piangendo. Erano arrivate molte minacce di morte, ne stava parlando anche la televisione. Dicevano che se Barabba Gomez avesse giocato, ci avrebbero ammazzati tutti. Queste sono le parole di Aspria, che sono pesanti come un macigno. La situazione è terribile. Maturana, l'allenatore, è paralizzato dalla paura e non vuole rischiare. Lascia fuori Gomez, che era uno dei giocatori più forti, però era, come dire, inviso alla malavita, viene lasciato fuori squadra. Questo perché in Colombia si sta anche giocando una guerra tra i grandi proprietari delle squadre di calcio. Se Gomez non gioca, lascia al suo posto a una riserva che acquista di valore. Insomma, quella sera Gomez decide addirittura di abbandonare, disgustato, ogni attività agonistica. Gli altri giocatori cominciano a telefonare a casa, chiamano in Colombia, ognuno parla con i propri familiari per assicurarsi, per sapere se stanno bene. La polizia viene incaricata di proteggere ogni parente dei giocatori che stanno per scendere in campo contro gli Stati Uniti. Con questo stato d'animo la nazionale colombiana scende in campo. È il 22 giugno 1994, siamo a Pasadena. Per noi che vedevamo la partita da casa, e anche per quelli che erano sugli spalti quel giorno, sembrava si giocasse una normalissima partita di un mondiale, anche piuttosto festosa. Bene, non era così. Lo stato d'animo dei giocatori colombiani era totalmente alterato, erano in preda al terrore. E in più, in quei casi ci si mette anche la sfortuna, perché i colombiani comunque attaccano, fanno gioco, però non riescono a segnare. Poi c'è un'azione di contropiede. Caligiuri mette al centro una palla e la palla arriva in mezzo ai giocatori. C'è un colombiano che si butta in scivolata per cercare di evitare che la palla arrivasse all'americano alle sue spalle, e la palla entra nella sua rete. Il destino la fa rotolare proprio nella sua rete. Sober. Caligiuri desperate to get up on the outside. Hearts, oh, it's going to go! What a tragedy for the Colombian defense! Escobar, on goal! Eh sì, era proprio lui, Andrés Escobar, la certezza della difesa colombiana, che in scivolata ha infilato la palla nella sua rete. Succede, può succedere, è successo a tutti i grandi campioni. Il risultato è che la squadra che era data tra le favorite per la vittoria finale torna a casa senza passare il primo turno. E Maturana nella conferenza stampa annuncia che lascerà la guida della nazionale, e anche molti altri giocatori abbandoneranno il calcio dopo questa partita. In pratica la favola del calcio colombiano finisce in quella notte del giugno del 94. Realmente difficile. Questo momento è molto difficile per me, non solo per l'errore che ho commesso, ma anche perché in queste partite la nazionale non ha potuto raggiungere gli obiettivi che tutti speravamo. Diciamo che cosa speravamo. E questo è un colpo d'ala che ti porta in basso, molto più in basso di quello che dovrebbe portare un autogol. Dopo anni di soddisfazioni, di grandi risultati, è sufficiente una sola giocata sbagliata per rovinare un sogno di un calciatore. Escobar lo sa che per molti comunque si tratta solo di calcio, anche che un risultato positivo della nazionale avrebbe potuto risollevare l'immagine del suo paese agli occhi di tutto il mondo. Tornato in patria, il popolo colombiano, la gente vera, si stringe attorno al suo giocatore, dimostra che non c'era ancora, che in fondo è solo una partita di calcio, e Andrés Escobar vuole continuare la sua vita, vuole dimenticare, come fanno molti campioni del calcio e di tanti sport che cadono, si rialzano, è lo sport, è la vita, ci saranno altre occasioni. La Colombia negli anni 90 non è un paese che ti dà altre occasioni, soprattutto non è un paese nel quale si possono fare dei progetti. Le strade sono molto pericolose, eppure Andreas vuole vivere ancora nel suo posto, almeno fino a quando non arriverà la grande occasione dall'Europa. Insomma, quella sera decide di uscire a bere qualcosa, incurante dell'avvertimento di Maturana e degli altri suoi compagni che gli sconsigliano di farsi vedere troppo in giro. Alle 3 di notte, a casa della sorella di Escobar, Maria Esther, arriva una telefonata. Io contesto il telefono e mi dijo Maria. Risposi al telefono e qualcuno mi disse: Maria, devo darti una notizia terribile. Andrés, lo hanno ucciso. Dopo aver trascorso la sera in un bar, Andrés Escobar viene fermato da un uomo che lo provoca. Lo ringrazia per l'autogol che aveva fatto. Nasce un battibecco. Lui se ne va. Non risponde alla provocazione, si dirige verso la sua auto, l'uomo lo insegue e gli spara 6 colpi di pistola. Andrés crolla a terra, non si rialzerà mai più. Qualcuno prende il numero di targa, l'auto dell'assassino risulta essere intestata ai fratelli Gaglione, esponenti delle nuove famiglie emergenti che stanno prendendo il posto di Pablo Escobar per il controllo del narcotraffico. L'uomo che ha sparato si chiama Humberto Muñoz Castro, è una guardia del corpo, è un uomo che difficilmente perde il controllo delle sue azioni per un battibecco. E insomma, è uno che era stato mandato per uccidere. Alla fine Castro verrà condannato a 26 anni, però dopo 11 riesce a uscire per buona condotta. I fratelli Gaion durante il processo sembrano apparire come i veri mandanti di un'esecuzione ordinata per compensare le perdite nelle scommesse clandestine, le perdite che sono state causate dalla eliminazione della nazionale colombiana. Ma l'inchiesta, che in un paese normale forse avrebbe messo in luce la verità, in Colombia viene affossata, perché basta dei dollari, magari anche milioni di dollari, per corrompere qualsiasi sistema di giustizia colombiano. Colombia non può perdere il partito contro la violenza. Colombia non può permettere che sus mejores hijos. La Colombia non può permettere che i suoi figli migliori siano espulsi dal campo della vita per colpa della violenza. Con queste parole, un po' di circostanza, il presidente della Repubblica César Gaviria commemora i funerali Andrés Escobar. Dopo la sua morte, la nazionale colombiana si disintegra. Il governo attua una forte repressione sul mondo del calcio e sulla sua connessione con il narcotraffico, alla fine del narcofootball, ma è anche l'inizio di uno dei momenti più bui del calcio colombiano. E molti sostengono, è paradossale, però molti pensano che se fosse stato ancora vivo il grande boss Pablo Escobar, ad Andrés non sarebbe capitato nulla, perché pur nella sua terribile ferocia Pablo Escobar sapeva riconoscere gli eroi positivi per il suo popolo. Oggi per fortuna la Colombia presenta tanti altri eroi positivi, Cuadrado, Guarín, Bacca, direi soprattutto Córdoba, un giocatore che ormai vive in Italia, è impegnato nel sociale, è un grande uomo ed è un esempio per tutti quei calciatori che pensano a cose più fatue rispetto ai veri problemi della vita. Ivan Ramiro Córdoba è una persona molto preziosa per la Colombia. Questi sono gli uomini che possono rappresentare il simbolo della rinascita del calcio colombiano. Oggi abbiamo deciso di raccontare una storia emblematica, una storia nel quale il calcio viene travolto da bassi interessi, dalla malavita, insomma una storia che speriamo possa non ripetersi mai più. È la storia di Andrés Escobar e del suo colpo d'ala negativo che lo portò a perdere la vita per un autogol. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi volete che si racconti una storia che ritenete interessante, e poi se volete mi trovate sui vari social, sui miei, su quelli del Falco e il Gabbiano, insomma sapete dove sono. Ciao, a lunedì.